Ustica, una verità inconfessabile di Renzo Martinelli. Il mio nome è Roberta Bellodi. Un tempo, molti anni fa, facevo la giornalista. Il 27 giugno del 1980 io mi trovavo in Calabria per un'inchiesta per il mio giornale. È stato quel giorno che io ho condannato a morte mia figlia. Quel 27 giugno maledetto ero salita su una montagna nell'entroterra della Sila, Appennino calabrese. Avevo avuto una soffiata da un mio informatore. Vai a Timpa delle Magare alle 7 di mattina. Ci saranno tutti. Cazzo, vi ho beccati gran pezzi di merda. Ad un certo punto, la mia attenzione si era puntata su un Alfa Romeo che stava parcheggiando su uno sterrato. Un uomo alto e prestante aveva richiuso la portiera. Allora ci sei anche tu, brutto bastardo. Io lo conoscevo bene, l'uomo dell'Alfa Romeo. Lo conoscevo bene perché quell'uomo era mio marito. Erano mesi che sospettavo avesse contatti con ambienti criminali. Per questo avevo deciso di divorziare. Per questo avevo telefonato a mia sorella Franca a Bologna. L'ho visto, Franca. Li ho fotografati insieme. Lui e i capi della 'Ndrangheta calabrese. Oh mio Dio. Ma chi l'avrebbe detto? Tuo marito? Presto sarà mio ex marito. Benedetta? Sì, è qui. Te la passo subito. No, no, aspetta. Hai prenotato il volo che ti ho chiesto? Sì, ho fatto come hai detto tu. Accompagna Benedetta in aeroporto. Sono stata io a chiederlo. Ma perché? Perché quella decisione? Dio, questo rimorso mi divora. Me lo porterò dentro per tutta la vita. Andiamo a via. Informati il volo 870 subirà un ritardo dovuto a mancato arrivo dell'aeromobile. Oh no! Che cosa c'è, zia Franca? Il volo per Palermo era in ritardo. 2 ore di ritardo. È strano come a volte basti un particolare da niente come questo per cambiare per sempre la vita di una persona. 2 ore, Cristo! Che cazzo sono 2 ore nella vita di una persona? Italia 870 richiede autorizzione al rullaggio. Quella sera, alla fine del lavoro, ero andata sulla spiaggia di Torre Mezzo di Falconara a fare un po' di jogging. Erano da poco passate le 9 di sera. È stato allora che l'ho visto. All'inizio era un puntino nero all'orizzonte. Sembrava fermo. Invece ingigantiva sempre di più. L'aereo era un MiG-23 libico, ma questo ancora io non lo sapevo. All'improvviso un rombo leggero alle mie spalle mi aveva fatto voltare. 2 grandi caccia affiancati sembravano emergere dal mare. I 2 caccia erano passati sibilando sopra la mia testa con un fragore che mi aveva lasciato senza fiato. Erano 2 F-14 Tomcat, aerei americani, ma anche questo lo avrei scoperto solo molti giorni dopo. Dio, com'è crudele a volte il destino. Ti trovi per caso su una spiaggia calabrese e un aereo libico passa sopra la tua testa e tu nemmeno immagini che è per causa sua che non rivedrai mai più tua figlia. 81 i morti nel D-19 precipitato ieri sera mentre era in volo da Bologna a Palermo. 35 salme già recuperate. Inspiegabili le cause dell'incidente. Tutti parlavano della scomparsa del D-19 e nessuno parlava del MiG-23 che mi era passato sopra la testa, inseguito dai 2 caccia americani. Che ci faceva un MiG libico a quell'ora sul nostro territorio? E perché gli americani lo stavano inseguendo? Più ci pensavo e più mi convincevo che era quel MiG-23 la causa della caduta del D-19 su cui viaggiava Benedetta. Dio lo maledica, quel pilota libico! che possa patire all'inferno tutti i tormenti che io ho patito, perché non c'è tormento più grande della perdita di una figlia. All'Istituto di Medicina Legale di Palermo continua in queste ore l'opera dolorosa del riconoscimento delle vittime. Eravamo lì e aspettavamo che ci chiamassero per il riconoscimento dei nostri cari. Dio, si può chiedere a una madre di riconoscere il cadavere della propria figlia? Signora, dovrebbe venire per il riconoscimento. Vado io. Va bene se vado io per te. No, non avevo avuto il coraggio di entrare. Qualunque cosa ci fosse là dentro, quella non era mia figlia. Benedetta era bellissima e dolce. E io così la volevo ricordare. Mia sorella Franca era rimasta dentro l'istituto di medicina legale per un tempo che non avrei saputo misurare. Quando finalmente mi si era riavvicinata, il mio cuore aveva cessato di battere. No, non c'è. Benedetta non c'è. Benedetta non c'era. Ripetevo quelle parole e mi ci aggrappavo con tutte le mie forze. Benedetta non c'era. Allora, forse... Da alcuni giorni, sulla spiaggia che si affaccia sull'Isola delle Femmine, in Sicilia, c'è una donna. Il suo nome è Roberta Bellodi. Dal giorno della tragedia, Roberta Bellodi passa le sue giornate su questa spiaggia, aspettando la figlia Benedetta, 7 anni, scomparsa insieme alle altre 80 persone che erano a bordo del 19, la sera del 27 giugno. Io non smetto di sperare. Per quanto possa sembrare assurdo, la mia bambina nuota benissimo. Io lo so. Abbiamo nuotato insieme in Puglia e in Sardegna. Nuoterà anche lì, nel mare di Ustica. Io l'aspetto su questa spiaggia. Benedetta tornerà da me a nuoto. Quanti giorni ho passato su quella spiaggia che si affaccia verso Ustica? Settimane, mesi. Mesi passati a scrutare il movimento delle onde, alla ricerca della sua testolina che avanzava verso di me. C'erano giorni in cui mi sembrava di scorgerla. Allora balzavo in piedi e le andavo incontro, camminando dentro l'acqua fin dove si toccava. Quando mi rendevo conto che si trattava solo di un riflesso delle onde, tornavo a rannicchiarmi sugli scogli, in attesa. Fu in un giorno di sole che venne da me quella donna. Era il 19 di luglio del 1980. Mi chiamo Valia. Io sono una pilota d'elicotteri. Lavoro per una piccola compagnia che si chiama Eli Calabria. Sono stata la prima persona a raggiungere il posto dove si dice si sia schiantato il MiG-23 libico. Quel MiG non è precipitato ieri, come loro vorrebbero farci credere. Quando sono atterrata a Timpa delle Magare, era la mattina dopo la tragedia del 19 a Ustica. E il MiG libico era già lì, insieme al corpo senza vita del pilota. L'ala destra era tutta crivellata di colpi. Proiettili da 20 mm dappertutto. Proiettili sicuramente provenienti da una mitragliatrice. Quel velivolo non è caduto, è stato abbattuto. Fu in quel preciso istante, quando Valia mi raccontò del MiG libico, che il mio cervello fu attraversato da una scarica elettrica. Era come se miliardi di neuroni si fossero improvvisamente mobilitati verso un unico obiettivo: scoprire perché Benedetta mi era stata tolta e portare in un'aula di tribunale tutti coloro che avevano manipolato la verità, che l'avevano nascosta, falsata, offesa, umiliata. Nessun civile si può avvicinare ad un'area di 5 km quadrati attorno a Timpa delle Magare. Quel poco che il Ministero della Difesa ha comunicato è che si tratta di un aereo monoposto di fabbricazione sovietica, un MiG-23 senza armi a bordo, appartenente alle forze aeree libiche, precipitato per ragioni ancora da accertare. No! Fottuti cervelloni del Ministero della Difesa. Qui c'è qualcosa che non quadra. Valia ha trovato il MiG libico a Timpa delle Magare la mattina dopo la strage di Ustica. Ciò significa che quel MiG è stato abbattuto la sera prima, cioè il 27 giugno 1980. Voi invece, il 18 luglio, avete rivelato alla stampa che un MiG era caduto a Timpa delle Magare il 18 luglio. 21 giorni dopo? Perché? E perché piantonare tutta la zona se non c'era niente da nascondere? Perché impedire a tutti i costi che la notizia arrivasse ai giornali? Ve lo dico io perché. Perché nessuno doveva sapere di quel MiG libico abbattuto la sera stessa della caduta del 19. Perché se l'avessero saputo, tutti avrebbero accostato i due fatti e sarebbe stato un gran casino per voi cervelloni che tutto comandate in questo paese. Ecco perché. Questa è la scatola nera trovata tra i rottami del MiG-23 caduto a Timpa delle Magare in Calabria. Alle ore 10.30 del 18 luglio 1980, un MiG-23 stava effettuando un normale volo di addestramento quando ha interrotto i contatti ed è scomparso. Il pilota, che in precedenza aveva già avuto dei problemi, ha perso totalmente il controllo dell'aereo a causa di un improvviso malore ed è precipitato. Bravi! Siete stati proprio bravi. L'avete nascosta bene la verità sulla strage di Ustica, voi, politici ad alto livello, servizi segreti o chiunque voi siate. Voi avete impedito a mia figlia di crescere, di frequentare una università, di sposarsi, di avere dei figli. Per 8 anni vi siete opposti al ripescaggio del 19. Per 8 anni pezzi di quell'aereo sono rimasti adagiati sul fondo del Tirreno, a 3.500 metri di profondità. Così avete avuto buon gioco a fare il vostro lavoro. Vi siete fermati di fronte a nulla, pur di impedire che si arrivasse alla verità sulla strage di Ustica. Finché un bel giorno in Italia cambia il governo e qualcuno decide che forse sì, vale la pena di scendere a 3.500 metri di profondità e riportare su quello che resta del 19 Itavia. E qui arrivano le prime sorprese. La società francese Ifremer manda giù i suoi robot a fotografare il fondo del Tirreno. I robot dell'Ifremer scattarono molte foto sul fondo del Tirreno. In queste foto si vedono perfettamente delle strisce parallele e continue, corrispondenti a quelle che vengono lasciate dai mezzi utilizzati per il recupero di reperti. Si vedono anche dei crateri provocati dalla caduta di oggetti pesanti e parzialmente insabbiati. Oggetti che evidentemente sono stati recuperati in precedenza. Oggetti recuperati in precedenza. Ma che significa? Che qualcuno è sceso prima di noi? E a recuperare che cosa? Sì, fottuti cervelloni del Ministero della Difesa. Qualcuno è sceso prima di noi, a 3.500 metri di profondità, a recuperare qualcosa che non doveva essere ritrovato nel corso delle nostre operazioni di recupero. Allora vi chiedo, ma che c'era di tanto imbarazzante sul fondo del Tirreno da provocare una campagna di recupero di quelle dimensioni e mantenuta rigorosamente segreta? Sempre nel corso di queste nostre operazioni di recupero salta fuori un'altra sorpresa. Insieme ai resti del 19 viene ripescato anche un serbatoio sub alare da 300 galloni di un caccia militare americano, ammaccato. La società californiana Pastushin Industries, che quei serbatoi li costruisce, dichiara in una relazione che le ammaccature visibili sul serbatoio non sono compatibili con l'impatto in mare, ma sono state provocate da un urto con un altro velivolo, dunque in volo. Ma le sorprese non sono ancora finite. All'interno di alcuni sedili del 19 Itavia, ripescati dal fondo del Tirreno, vengono ritrovate, conficcate in profondità, delle schegge con traccia di pittura verde chiara, non presente nei colori del 19, ma chiaramente identificabili come Olive Grey Mimetic Paint, una pittura usata per gli aerei militari. Schegge con tracce di pittura militare, possibile? possibile. Già, dal fondo del Tirreno viene ripescato anche il cockpit voice recorder del DC-9, uno strumento che registra tutte le conversazioni che avvengono in cabina e le conversazioni tra i piloti e le varie stazioni radar. Sporca, eh? Mancano pochi secondi alla strage. Il comandante Gatti sta raccontando una barzelletta al secondo pilota e allo steward. Improvvisamente la sua voce cambia di tono e si fa allarmata. Lo si sente dire «Gua!». Poi è il silenzio. Il DC-9 scompare dai radar in una nuvola di pallini verdi. Due perizie interpretano l'allarmato «Gua!» del comandante Gatti come il fonema «Guarda!» interrotto al millesimo di secondo. Il fatto che il comandante Gatti non sia riuscito a dire una parolina semplice come guarda avrebbe dovuto insospettire tutti. Riflettete. Quel piccolo fonema interrotto al millesimo di secondo sta ad indicare che un evento istantaneo e violentissimo ha impedito al comandante Gatti di concludere la parola iniziata. Knock it off! Break away! Quanto tempo ci vuole per dire guarda? Un secondo? 8 decimi di secondo? Eppure il comandante Gatti non riesce a finirla, quella parolina. In una frazione di secondo ogni strumentazione del DC-9 ha cessato di funzionare. Circuiti elettrici, idraulici, bang! Tutto spezzato di colpo. Ma che cosa è successo? Alle ore 20:59 primi 45 secondi nel cielo di Ustica. Quale terribile evento mi ha portato via Benedetta? Non è vero che con gli anni il dolore si stempera nel ricordo, no, io vi posso assicurare che non è così. Lo strazio per la perdita di una figlia non passa mai, mai, neppure il tempo può lenire un dolore come quello. Ma non vi illudete, politici ad alto livello, servizi segreti o chiunque voi siate, prima di andarmene io la evocherò. La verità sulla strage di Ustica la evocherò e la comunicherò al mondo. E voi pagherete per quello che avete fatto. Com'era l'ipotesi che avete messo in giro in quei giorni lontani di giugno del 1980? Cedimento strutturale dell'aeromobile. Questo è il rapporto sulle condizioni del DC-9 Itavia. Cito. Dal 1970 al 1978 il velivolo veniva impiegato per il trasporto di pesce. Successivamente, nel 1979, per essere precisi, l'aeromobile è stato comprato dalla compagnia Itavia e poi trasformato per il trasporto Scusate, di persone... Scusate, ma se si dimostra che la causa 8 è anni. Un 8 anni a trasportare il pesce sono tanti. Il sale marino deve inevitabilmente aver impregnato i metalli, li ha irrimediabilmente corrosi. E a 900 km all'ora un metallo corroso che fa? Cede, si apre, si spezza in due, bravi! Ipotesi suggestiva. Vede signora, io sono un ingegnere aeronautico da molti anni. Un cedimento strutturale di un aeromobile impiega parecchi secondi a compiersi, 15-20 secondi almeno. Il comandante Gatti avrebbe avuto tutto il tempo di lanciare un allarmato Mayday, un segnale di emergenza, una indicazione che ci facesse capire che qualcosa di anomalo stava accadendo a bordo del DC-9. E invece... Invece niente. Silenzio assoluto. Ma come? Il comandante Gatti sta pilotando il suo DC-9 verso Palermo. Sente le lamiere deformarsi, si rende conto che il suo aereo sta andando in pezzi e tutto quello che sentiamo sul cockpit voice recorder è un allarmato guà! Beh, sarete d'accordo con me che è difficile da credere. Scusate, ma se si dimostra che la causa è dovuta a un cedimento strutturale, l'Italia dovrà risponderne alle autorità competenti. Infatti, l'amministratore delegato di Italia non ha esitato un istante. Ha preso subito carta e penna e ha scritto al Ministero dei Trasporti, asserendo che, secondo la sua opinione, il D19 è stato volutamente colpito e abbattuto da un missile. Un missile? Non appena scatta l'ipotesi del missile aria-aria, sicuramente vi sarete detti: e perché no? Pure meglio del cedimento strutturale. Sapete che facciamo? Disinformiamo. E se veramente fosse andata così? E se davvero fosse stato un missile ad abbattere il D19 Itavia, nessuno saprà mai chi lo ha lanciato. Nessuno saprà mai contro chi era stato lanciato. Morale? Nessuno paga. Palermo, qui Itavia 870, chiediamo autorizzazione a scendere di quota. Buonasera IH870, autorizzati ai 15. La sera di quel lontano 27 giugno 1980, il volo Itavia scende tranquillo verso Palermo, ma il comandante Gatti non sa che nascosto sotto la pancia del suo aereo c'è un MiG-23 libico. Pochissime persone a quel tempo sapevano che molto spesso gli aerei di linea effettuavano i loro voli portandosi sotto la pancia i MiG-23 libici del colonnello Gheddafi. E sì, perché il colonnello in quegli anni Ottanta aveva un serio problema. I suoi caccia da combattimento erano di fabbricazione sovietica, ragion per cui in Libia nessuno ci sapeva mettere le mani. Dunque facevano manutenzione nella base di Banja Luka, in Jugoslavia. Per arrivarci e poi tornare a casa, dovevano in qualche modo passare sopra il nostro territorio, che notoriamente è costellato di basi NATO. Per evitare di essere visti, i MiG-23 libici si mettevano sotto la pancia di un ignaro aereo civile e lo seguivano come ombre per un certo tratto. I radar di terra, all'epoca molto imprecisi, leggevano un solo plot, un solo pallino verde. Così i solitari MiG-23 potevano sorvolare impunemente il nostro territorio senza timore di essere scoperti. Il tutto con la tacita compiacenza dei nostri servizi segreti, con la vostra tacita compiacenza. Voi sapevate, ma facevate finta di non vedere. Subhanallah, questo non è l'Air Malta. E c'è scritto sulla fiancata Italia. Con un po' di fortuna mi farà arrivare fino a Palermo. La sera del 27 giugno 1980 il Boeing 720 dell'Air Malta, che collega Londra con Malta, parte in ritardo dall'aeroporto inglese. Così un solitario e disarmato MiG-23 libico arriva al suo appuntamento e non lo trova. Trova invece il nostro D19 Itavia, che è appena decollato dall'aeroporto di Bologna. Allora che fa il pilota libico? Si mette sotto la pancia del D19, ignaro del fatto che quello sarà l'ultimo volo della sua vita. Così voi vi siete inventati l'ipotesi del missile. Bravi! Grande idea! Geniale! Purtroppo per voi, però, col ripescaggio dei pezzi del D19 nascono le prime perplessità. I due reattori del D19 vengono ripescati intatti. Intatti! Prima domanda. Come mai il missile Sidewinder non ha colpito uno dei due reattori del D19? Visto che questi missili sono attirati proprio dalla fonte di calore? Seconda domanda. Come mai sulle lamiere del D19 non c'è traccia dello sforacchiamento tipico di un colpo da missile Sidewinder, visto che quando si innesca la sua testata esplosiva migliaia di sfere d'acciaio colpiscono il bersaglio? Scusami, sono stato tutto il giorno alla camera. Senti, ma che dicono i tuoi colleghi della tragedia di Ustica? Beh, pare che ci fosse una bomba a bordo del D19 nella toilette in fondo all'aereo. Lo devo ammettere. La terza ipotesi, quella della bomba nella toilet di coda del D19, è quella che vi è riuscita meglio. Infatti ha retto per molti anni, fino a quando, dalla fossa del Tirreno, non vengono ripescati i pezzi del 19 e qui scopriamo alcune stranezze che proprio non quadrano con questa vostra terza ipotesi. Prima stranezza. Le lamiere del 19 all'altezza della toilet di coda non presentano alcuna traccia di estroflessione. Ma come? Esplode una bomba nella toilet di coda e non c'è alcuna traccia di estroflessione? Come mai? Come mai, seconda stranezza, dalle profondità del mare Tirreno, il water della toilet e il relativo coperchio vengono ripescati intatti? Ma come una bomba esplode in una toilet larga quanto una cabina telefonica e non devasta il water? Insieme ai corpi delle vittime del 19 hanno rinvenuto anche i frammenti di una fusoliera di un jet militare americano. Un seggiolino di espulsione, anche questo di un jet militare americano. Cordame di paracadute. Due giubbotti di salvataggio con marchi americani. Come mai questi reperti in mare sono assieme ai cadaveri? Come mai nei sedili del 19 vengono ritrovati dei frammenti metallici la cui lega corrisponde a quella utilizzata nella costruzione dei pannelli alari dei caccia F-5E, a quell'epoca presenti in numerosi esemplari nella base americana di Decimo Mannu in Sardegna? Come mai tutti i cadaveri ripescati dal mare Tirreno hanno il timpano destro perforato? Perché non il sinistro o entrambi i timpani? Come mai? Se io potessi sapere chi siete e potessi guardarvi negli occhi, vi ripeterei queste parole fino allo sfinimento. Come mai? Come mai? Come mai? Ma voi siete delle ombre, dei fantasmi. Spesso si dice i servizi segreti. Ma i servizi segreti sono fatti da uomini, per Dio, con una faccia, una casa, una moglie, dei figli, dei sentimenti. Li avete voi, dei sentimenti? No, io ne dubito. Non potreste fare il lavoro che fate. Voi avete nascosto la verità sulla morte di 81 persone e la sera rientrate a casa, baciate i vostri figli, cenate, guardate la televisione con vostra moglie, poi andate a letto e, incredibile, riuscite a dormire. Ah sì, io sono sicura che voi riuscite lo stesso a dormire. Io no. Qualche volta, quando la nostalgia è più forte, torno su questa spiaggia. So che Benedetta non tornerà più da me. La mia bambina è volata in fondo al mare in una sera di giugno. Io so tutto di voi. Non vi ho perso di vista un solo giorno. Vi ho visti al lavoro. Vi ho visto manipolare prove, falsificare documenti, sopprimere testimoni scomodi. Vi vedevo al lavoro e mi dicevo no, non possono riuscirci. Non possono impedire che si arrivi finalmente alla verità sulla strage di Ustica. Invece ce l'avete fatta. Ancora oggi, dopo tanti anni, non riesco a credere che siate riusciti ad ingannare così bene un intero paese. Tre ipotesi, sempre sostenute, sempre difese. Allora io vi dico, se invece esistesse una verità terribile, inconfessabile, voi lo sapete che esiste, ma non potrete mai ammetterlo, perché siete dei servi, docili, ubbidienti. E io so che alla fine vincerete voi. Perché dietro di voi c'è una ragion di Stato che tutto manipola e tutto decide. Io, se proprio devo essere sincera, non vedo l'ora di esaurire i giorni che mi sono stati assegnati e di raggiungere Benedetta, ovunque lei sia. Forse domani entrerò nel mare che si affaccia verso l'isola di Ustica e comincerò a nuotare verso Ustica. Sì. Verso la mia bambina. Il volo Itavia IH-870 precipita in mare. 81 morti. Nessuna verità. Ustica, una verità inconfessabile. Ustica, un film di Renzo Martinelli. Ustica, dal 31 marzo, al cinema. Avete ascoltato Ustica, una verità inconfessabile, di Renzo Martinelli. Voce di Rita Savagnone. Sceneggiatura di Renzo Martinelli. Montaggio di Cristiano Ciccone. Musiche di Pivio e Aldo Descalzi.